Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo della vicenda Mediaset Vivendi. A sorpresa, infatti, è saltato l'accordo tra Vivendi e Mediaset. Lo ha comunicato la stessa Mediaset con una nota in cui si legge la volontà del gruppo francese di acquistare solo il 20% del capitale di Mediaset Premium e di arrivare a detenere in 3 anni il 15% attraverso un prestito obbligazionario convertibile, invece che il 100% come stipulato. In una contronota, l'amministratore delegato di Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, ha comunicato che Vivendi non intende onorare il contratto. Una vicenda abbastanza delicata, il titolo ha avuto subito uno scossone, continua a essere peggiore oggi tra quelli a maggiore capitalizzazione, perde il 6,5%, e Fininvest definisce e denuncia l'eccezionale gravità e l'assoluta scorrettezza del comportamento del colosso delle telecomunicazioni e non solo francese Vivendi, quindi si legge Bolloré, che è il proprietario. Praticamente ha detto poi Vivendi: non penso che non si troveranno delle soluzioni, è un contratto binding fatto in diversi punti, stiamo discutendo da 2 settimane, non vogliamo più il controllo di Premium, e cercheremo di capire che cosa, diciamo, è successo da aprile adesso, visto che avevamo molto raccontato anche l'operazione di acquisizione da parte dei francesi, appunto, di Mediaset Premium. E da quello che si è capito vi sono divergenze significative nell'analisi dei risultati della pay TV di Mediaset, e questo dovrebbe aver spinto, da quello che capiamo, Vivendi ha capito o ha ritenuto di aver speso troppo e, insomma, che il progetto non fosse coerente. Comunque, titolo meno 6,70%, per il resto male anche Luxottica meno 3,70%, Mediobanca meno 2% come Unicredit, Moncler meno 1,90%, Azimut meno 1,70% come Telecom Italia. Il Monte dei Paschi perde l'1% solo. Che cosa è successo su Monte dei Paschi? Ne parleremo in apertura. Di nuovo il Financial Times, che oggi ipotizza in 5 miliardi l'aumento di capitale necessario per il Monte dei Paschi di Siena, proprio come conseguenza dell'esito dei famosi ormai stress test. Dicevo, in realtà parleremo di questo, ma anche di Atlante 2, il fondo che servirà da paracadute per il Monte dei Paschi di Siena, che è nato, si chiama Atlante 2 perché il primo Atlante è quello che ha sostanzialmente acquistato il 99% del Popolare di Vicenza e Veneto Banca e ha speso i 2/3 di capitale in queste due operazioni. Atlante 2 vede l'attribuzione di soldi da parte dell'Associazione degli Enti Privati di Previdenza, l'ADEP, dovrà essere deliberato da ogni singola cassa, ne sono 19 in tutto, per un totale di 500 milioni di euro. L'ADEP ha deliberato infatti di sostenere l'iniziativa Atlante 2 come richiesto dal governo nell'incontro tra la delegazione e il Premier Matteo Renzi e il Ministro dell'Economia Padoan. Il nuovo fondo, a cui parteciperà appunto con mezzo miliardo anche ADEP, avrà circa 3-4 miliardi di liquidità, di disponibilità, e sarà dedicato all'acquisto e alla gestione solo dei non performing loans, cioè delle sofferenze bancarie che pesano sui bilanci delle banche italiane. E allora i soldi li metteranno, oltre alle casse previdenziali, anche la Cassa Depositi e Prestiti, SGA, e lo stesso Fondo Atlante. Dovrebbero essere vicini all'adesione anche Unicredit, Unipol e Generali. Ripeto, tutto questo nell'ottica anche dell'operazione sul Monte dei Paschi di Siena. Parleremo anche di Spending Review, perché oggi è intervenuto anche su questo il commissario alla Spending Review Gutgeld, e soprattutto parte l'iniziativa dei cosiddetti centri di acquisto, cioè l'accorpamento di quello che riguarda la gli acquisti fatti da parte della pubblica amministrazione. Su questo, tra l'altro, oggi si è aperto anche un confronto con il ministro della funzione pubblica Mariana Madia, non sulla spending ma sul pubblico impiego, sul contratto del pubblico impiego. Ha incontrato infatti le categorie. Barbagallo dice oggi, il leader della UIL, che servono 2 miliardi e mezzo per pensioni e lavoro, ma in realtà il tema è proprio il rinnovo del contratto del pubblico impiego, che riguarda 3 milioni e 200 mila lavoratori. Anche di questo parleremo. 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp. Poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora andiamo su per quello che riguarda l'Italia sostanzialmente. Il Tesoro ha fatto un pieno nell'asta di BTP e CTZ, venduti a 3 miliardi e mezzo. Il rendimento lordo, pensate, di CTZ a 24 mesi, quindi scadenza marzo 2018, rendono lordi meno 0,15%. I BTP a 5 anni rendono lordi lo 0,08%, quindi ci perdi. Allora, gli indici, ha ragione l'ascoltatore, non ho detto gli indici. L'indice di Milano è invariato, così come è invariata Parigi. Francoforte più 0,40, Londra invariata, Dow Jones meno 0,50%, euro su dollaro a quota 1,09. Andiamo avanti con le notizie sulla Brexit. Di nuovo si continuano a fare ragionamenti e stime sull'impatto della Brexit. Oggi lo ha fatto l'Ufficio parlamentare di bilancio, che arriva, lo dico con massimo rispetto, buon ultimo dopo tutte le revisioni sulla crescita fatte dal Fondo Monetario, dall'OCSE, dal Centro Studi Confindustria. Abbiamo raccontato la settimana scorsa, quest'anno non si andrà oltre lo 0,8 se va bene, quindi sarà un anno che si chiude come l'anno scorso, altro che anno di svolta. L'Ufficio parlamentare di bilancio, io non capisco, immagino che leggano i giornali, perché arrivano tardi e lenti, ma soprattutto vecchi. Allora, dicono Ufficio parlamentare del bilancio, la crescita del 2016 dell'1,2%, così come ipotizzato nel documento economico finanziario, appare non raggiungibile, ma va, e vengono pure pagati, immagino, per questo, e scontando un ultimo trimestre in espansione contenuta ma sempre favorevole, il tasso di crescita nel 2016 si collocherebbe poco sotto l'1%. Lo dico con la massima modestia possibile, ma ascoltatevi Focus Economia, l'abbiamo spiegato nelle settimane scorse, è lo 0,8 se va bene, lo 0,6 se va come sembra che debba andare. Secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, una ripresa meno dinamica rispetto alle precedenti stime caratterizzerebbe anche il 2017. Oh, ma lo dicono tutti, proprio tutti, qualunque organismo internazionale. Però l'acqua calda ogni tanto la si scopre. Comunque, uno degli impatti sarà la Brexit, lo abbiamo raccontato molte volte, e di Brexit si sta ancora parlando qui al Sole 24 Ore a Milano, in via Monterosa 91, per l'evento che abbiamo organizzato, che si chiama Speciale Brexit, l'estate dell'incertezza. Il nostro Sergio Nava, che lo sta seguendo, ha raggiunto alcuni degli ospiti che hanno partecipato nei vari interventi. Sentiamo Marco Tronchetti Provera, numero uno di Pirelli. Io credo che possa essere molto limitato l'effetto Brexit. Il tema è come reagisce l'Europa a Brexit. La cosa rilevante è che finora l'Europa non si è fatta un'agenda per Brexit, non ha stabilito quali sono le cose che vogliamo fare insieme agli inglesi, quelle che non vogliamo fare se gli inglesi non rispettano certe regole. Questo credo che sia l'elemento che non dà fiducia nell'Europa. Quindi bisogna che l'Europa prenda posizioni chiare. L'Inghilterra in 20 giorni ha rifatto un governo, ha messo un primo ministro che pare molto determinato. e rischia di far vedere al mondo intero che Brexit può avere un valore positivo nel tempo. Questo sarebbe una grave sconfitta per l'Europa. La scelta dei ministri è stata una scelta molto attenta, è stato messo come ministro per Brexit uno dei fautori Brexit, come dire adesso tu devi dimostrare che non è un danno, è stato messo Boris Johnson come ministro degli affari esteri, come dire adesso tu devi dimostrare che... Quindi la capacità di reazione dell'Inghilterra è molto diversa da quella dell'Europa, questo colpisce. Eppure l'Europa potrebbe cogliere delle opportunità, Milano ad esempio già lo sta dimostrando con l'idea di attrarre qui delle agenzie europee, e la stessa Europa potrebbe attrarre investimenti. Cosa suggerirebbe la Commissione europea? Ma la Commissione europea prima di tutto deve avere un progetto che riguarda la crescita in Europa. Non esiste nulla, abbiamo sentito parlare Juncker per mesi 300 miliardi destinati alla crescita, non si è visto un euro. Quindi o si dà ai cittadini europei il senso che l'Europa dà crescita e non crea invece situazioni confuse come quelle del Portogallo e Spagna, perché la prima decisione post Brexit della Commissione è stata relativa alle sanzioni a Spagna e Portogallo e non a qual è l'agenda per la crescita in Europa. Queste sono cose che preoccupano, fanno pensare che le leadership europee non portino davvero l'Europa verso gli obiettivi che dovrebbe avere. E sempre sull'impatto Brexit è intervenuto sempre al convegno del Sole 24 Ore, anche sono intervenute numerose persone che stanno tuttora intervenendo, ma il nostro Sergio Nava ha raggiunto anche chi dal punto di vista delle banche d'affari vede rischi ma non solo sul fronte Brexit. Mi riferisco al numero 1 di HSBC Italia, Marzio Perrelli. Sì, è un fattore di incertezza che arriva in un momento in cui c'è un profondo rethinking del sistema bancario, però come tutte le cose può essere anche il catalizzatore per poi avere delle nuove opportunità nel giro del mondo finanziario, quindi non è detto che sia una cosa negativa, è chiaro che è una cosa che lascerà molta incertezza, molto da pensare, però può essere anche l'opportunità per ripartire da basi molto interessanti. Allora passiamo invece alla Salerno-Reggio Calabria. Perché? Perché oggi si è inaugurato un altro tratto, il viadotto praticamente sulla Salerno-Reggio Calabria, nel tratto tra Laino Borgo e Campo Tenese. Insieme al Presidente del Consiglio Renzi, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del Rio, il Presidente dell'ANAS Armani, Gian Vittorio Armani, Renzi ha detto: è finito il tempo in cui si rideva dell'Italia, in Italia si può ridere, si può scherzare, ma nessuno può permettersi di ridere di noi. E poi quando siamo partiti ridevano di noi. Il 22 dicembre percorreremo questa infrastruttura da Salerno a Reggio Calabria con Del Rio, andremo piano, la scorta se vuole segue, sostenendo che, poi ha aggiunto Renzi, per l'Italia nessuna impresa è impossibile. Il 22 dicembre noi avremo l'intera infrastruttura pronta senza alcun restringimento. Questo deve essere chiaro, in particolar modo a tutte le amiche e gli amici della stampa internazionale e nazionale che ridevano quel giorno. Il 22 dicembre la Salerno-Reggio Calabria sarà terminata come avevamo promesso, perché l'Italia mantiene i propri impegni e nessuno può sorridere dell'Italia. Si può sorridere in Italia, si può star bene in Italia, si può scherzare in Italia. Ma è finito il tempo in cui si ride dell'Italia. E poi continua Renzi, l'Italia più grande è un paese più grande di chi vorrebbe fermarla. La Salerno-Reggio Calabria è qualcosa più di un simbolo. Lo è stato l'Expo, quando tanti dicevano non ce la farete mai. E noi ci siamo messi lì e l'Italia ce l'ha fatta. È stata sulla variante di Valico, che ci sono, ah sì, a Natale aprite la variante di Valico, i commenti sui social di quale anno, e la variante di Valico è stata aperta come avevamo promesso, perché l'Italia ce l'ha fatta. E quando abbiamo detto della Salerno-Reggio Calabria, hanno indossato lo stesso broncio d'ordinanza e hanno iniziato a dire non ce la faranno mai, non ce la faranno mai. L'Italia è molto più grande di chi vorrebbe fermarla. E la Salerno-Reggio Calabria è un simbolo. Ogni giorno ci sarà qualcuno che vi dirà che noi no, non ce la faremo mai. E ogni giorno il nostro compito sarà quello di dimostrare che se tutti insieme lavoriamo nella stessa direzione, se tutti insieme scegliamo, come è stato fatto qui, la strada del coraggio, della legalità e la strada della fantasia anche nell'andare a individuare alcune soluzioni, beh, alla fine i risultati parlano. Allora, adesso... fa bene il Presidente del Consiglio a innestare fiducia, l'abbiamo detto molte volte, la fiducia è una variabile economica. Fa male forse a vedere sempre un nemico in qualcuno, il broncio, i gufi, ma che palle. Allora, la Salerno-Reggio Calabria, bene se il governo Renzi la finisce, ma che sia una barzelletta perché è iniziata negli anni 70, non per colpa del governo Renzi, ma per colpa di questo paese, non è che è un'ossessione della stampa, è una delle grandi incompiute di questo paese. La camorra e l'andrangheta ci ha messo le mani moltissime volte, voglio dire, dopodiché bene che venga conclusa, bene che ci sia un segnale che le opere si possono portare a compimento e chiudere definitivamente. Noi avevamo quell'ineffabile uomo che era Ciucci per anni, direttore generale, presidente dell'ANAS, che fece causa a se stesso, si fece rimborsare riguardo alla vicenda, che continuava a dire sì, adesso è pronta. Allora bene se si chiude, però insomma non diamo sempre la colpa a qualcun altro. C'è stato un ritardo del paese in quest'opera infrastrutturale, un ritardo inaccettabile, che non vuol dire dalla colpa al governo Renzi, ma dalla colpa alla politica di questo paese. E invece d'accordo con l'idea che il Presidente del Consiglio ha ribadito oggi, che gli investimenti pubblici servano, lo diciamo da tempo, anche da prima che Renzi fosse al governo, ed è l'errore più grosso che ha compiuto questa Europa nel non avere un piano europeo di investimenti pubblici, non di sprechi pubblici, di investimenti pubblici. Non è che automaticamente consente prospettive di lavoro per i singoli, ma certo è 1.200.000.000 di lavori, che vuol dire non soltanto una cosa utile per il paese e per la Calabria, ma anche un'occasione importante di lavoro per gli operai di questa infrastruttura, perché come sapete, come è stato più volte fatto notare, l'80% di chi ha lavorato è di questa terra, ed è importante che si possa combattere la piaga della disoccupazione anche attraverso gli investimenti pubblici, perché una certa cultura tecnocratica negli ultimi anni ha fatto bloccare gli investimenti pubblici, non capendo che gli investimenti pubblici vanno fatti bene, vanno fatti con il rispetto delle regole, vanno fatti combattendo l'illegalità e la corruzione, vanno fatti quelli utili e non quelli inutili, ma vanno fatti gli investimenti pubblici, perché un paese che smette di fare investimenti pubblici si sta tagliando le gambe da solo. E poi l'ultimo passaggio nell'intervento del Presidente del Consiglio che riguarda gli investimenti, anche questo pubblici, ma soprattutto la banda larga. Renzi ha ribadito che tra gli investimenti infrastrutturali c'è anche la banda larga, non saremo competitivi se non avremo la banda larga ovunque. Le prossime regioni con il piano per l'area C e D, e questo arriverà entro le vacanze. De Vincenti ha detto che non andrà in ferie se non lo pubblica. Sarà anche una rivoluzione per il turismo al sud. Questa infrastruttura diventerà non più l'infrastruttura degli sprechi e dei ritardi, ma un'infrastruttura tecnologicamente all'avanguardia, con la banda larga per poter consentire ogni tipo di informazione, e che permetterà una velocità di spostamento, sempre nel rispetto del codice della strada. Bene, saremo di fronte a una rivoluzione per il turismo. Il primo elemento chiave per il turismo, accanto alla qualità dell'accoglienza, è l'accessibilità. E la qualità dell'accessibilità. Allora, anche qui molte volte ne abbiamo parlato, le infrastrutture servono, servono le infrastrutture aeroportuali, la banda larga, servono le autostrade. Dopodiché, lo dico a tutti gli operatori turistici e in particolar modo al sud, non illudiamoci che se non cambia anche una certa mentalità che vede nel turista che va al sud la selvaggina da passo, cioè quello che abbatti perché la becchi, la intercetti, e quindi diciamo il breve respiro, non riusciranno mai a sviluppare nemmeno con, tra virgolette, l'occasione cinica e tragica del fatto che tutte le rotte, Turchia, Egitto, Nord Africa, siano in gran parte bloccate per il timore del terrorismo. Però bisogna anche, oltre a dare la colpa allo Stato, alle infrastrutture, agli aeroporti che vanno fatti, cambiare anche la testa dei calabresi, in questo caso, di alcuni siciliani e anche di alcuni campani e pugliesi, perché deve essere considerato veramente un investimento nel medio termine. Ancora non ci siamo. E poi, questo è un appello che lancio dall'Italia, andate a vedere le tariffe che pratica la nostra compagnia di bandiera per le tratte nazionali. Ma io dico, ma scusate, ma 500 euro... 480 euro per andare in Sicilia, 500 euro per andare a Reggio Calabria, ma ci vai a New York con quei soldi? Allora, vediamo anche di capire se si vuole sviluppare o anche in questo caso si utilizza, visto che poi uno magari è obbligato ad andarci in aereo o in Sicilia o in Calabria, si utilizza, diciamo, anche in questo caso il turista come selvaggina da passo, va bene? Perché il governo e lo Stato mettono a disposizione le infrastrutture, dopodiché c'è anche molto piagnisteo, retorica e autoassoluzione nel nostro mezzogiorno, è lo Stato e le infrastrutture. Delle volte ci sono, manca la testa imprenditoriale per fare bene il turismo, rispettando il turista, mettendosi al servizio del turista, non fregandolo necessariamente, non facendo sempre le furbate all'italiana. Perché in quel caso, per rispondere a Renzi, non ridono di noi, ci criticano direttamente. Allora, andiamo sul ministro Madia, che oggi dice, ministro della pubblica istruzione, parlando delle valutazioni degli incentivi a pioggia per i dirigenti, secondo quando si apprende da fonti sindacali, la distribuzione degli incentivi non può seguire un percorso a pioggia. Stop agli incentivi a pioggia. Premiare chi fa bene con differenziazioni. Però, scusatemi, se non voglio polemizzare con il ministro Madia, ma ministro, non è quest'anno che abbiamo scoperto sui giornali e l'abbiamo messa in testa la nostra poco invidiabile classifica. È da sempre che le retribuzioni dei dirigenti della pubblica amministrazione tutti ottengono il 99%, ottiene il premio di risultato. Abbiamo raccontato come si stabilisce il premio di risultato in base a quante riunioni partecipi, quanto materiale, protocolli, delle cose assurde, okay? Per cui, ministro, mi raccomando, intervenga, perché la pubblica amministrazione è una riforma fondamentale. Tutto questo governo si sta concentrando sulla Costituzione, sulla legge elettorale, ma è la riforma della pubblica amministrazione, della burocrazia, che farebbe ripartire sto paese. E il ministro Madia sia più incisiva, se riesce. No, non ho detto che al nord i turisti non vengono mai raggirati, però siccome si parlava, ci mancherebbe, si parlava del, Renzi ha parlato delle potenzialità del turismo al sud con appunto la banda larga e il completamento della Salerno-Reggio Calabria. Ho solo detto, benissimo, le infrastrutture sono necessarie, attenzione però che va cambiata un po' anche la mentalità di molti che fanno turismo nel sud, ok? Perché se no... Allora, il lavoro. Oggi abbiamo tantissimi contributi. I sindacati di governo si incontreranno venerdì prossimo, quindi 29 luglio, al Ministero del Lavoro per fare il punto su lavoro e pensioni. L'ha detto Poletti oggi a Bari, dove ha partecipato a un incontro su giovani, lavoro, imprese e territorio. E poi invece ha detto, per quello che riguarda l'Ana Tuzzi, dove ieri c'è stato un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico, che ha comunicato, ahimè, la mobilità per 330 lavoratori, Poletti ha detto il nostro sforzo è non lasciare, nel caso della Natuzzi, nessuno a piedi. Natuzzi è una lunga storia, noi abbiamo lavorato molto su questo versante, sull'accordo sulla Natuzzi, abbiamo cercato di mettere in piedi tutti gli strumenti e di ammortizzatori da un versante e di rilancio dall'altra. Adesso naturalmente continuiamo a seguire queste situazioni, perché nel paese ne abbiamo diverse, il nostro sforzo è di non lasciare nessuno a piedi, quindi cerchiamo di fare tutte le operazioni di ricollocamento possibili, tutte le gestioni delle transizioni che si possono fare dentro dei processi e dei piani che consentono di avere delle imprese capaci di stare sul mercato, perché questo è il punto. Noi dobbiamo fare in modo che ci siano aziende che hanno un loro mercato e una possibilità di fare bene il loro lavoro, perché diversamente magari reggiamo per 6 mesi e poi fra 6 mesi siamo nuovamente da capo. Quindi bisogna fare progetti sostenibili nel tempo, e noi cerchiamo con gli strumenti che abbiamo di aiutare queste imprese, questi territori a fronteggiare le loro difficoltà. Oh, allora, e poi sul reddito di inserimento, sempre il ministro del lavoro Gino Poletti, stiamo lavorando su un progetto nazionale, un piano nazionale per avere uno strumento che garantisca uno standard comune in tutta Italia. Naturalmente noi adesso stiamo lavorando sul un progetto nazionale, un piano nazionale per avere uno strumento che garantisca uno standard comune a tutta l'Italia. Naturalmente ogni regione poi su questo versante con la propria strumentazione si può mettere nelle condizioni di fare qualcosa di più e di meglio, quindi lavoriamo insieme a avere da una parte un reddito di inserimento, che è una condizione che sarà presente in tutto il paese perché lo stiamo sviluppando a livello nazionale, poi avremo un'azione a livello territoriale che ogni regione farà, e noi naturalmente agiamo perché questi strumenti si parlino, questi strumenti si integrino e realizzino il miglior risultato possibile. Allora, adesso rispondo anche chi mi sta dando dell'antimeridionalista. Che palle, ragazzi. Cioè, allora, vedete, l'errore di chi fa, a mio avviso, è buttare sempre tutto quanto. Allora, così come sbagliano l'atteggiamento antimeridionalista, sbaglia anche chi difende a prescindere sempre e comunque il Sud. Attenzione, ci sono responsabilità nella vita, non è che è tutto bianco, tutto nero. Allora, si è solo detto che delle volte, anzi, spesso, non ho detto delle volte, ho detto spesso, pur essendoci ottimi casi di turismo che si è sviluppato al sud, c'è ancora, soprattutto in alcune regioni, parlo soprattutto della Calabria e della Sicilia in questo caso, oltre che di parte della Campania, c'è un'incapacità di capire che l'investimento nel turismo, se vuoi che diventi una risorsa vera e propria, l'oro nero, il nostro petrolio, quello che volete, non puoi farlo semplicemente cercando di fregare l'altro o con un atteggiamento a breve. Devi fare un investimento più a lungo termine, ragionare il rapporto con... A questo stiamo dicendo. Certo che c'è anche chi fa il furbo al nord e ci mancherebbe. Non ho capito perché devo sentirmi dare dell'antimeridionalista o perché un altro mi scriva è colpa dei cittadini calabresi e anche siciliani se è da un secolo che vengono usati e sfruttati dai politici corrotti dalla mafia. Senta, adesso non mi faccio andare su altri temi, ma i politici corrotti, chi li ha votati sti politici corrotti? Allora, che la mafia sia un problema e l'andrangheta pure sì, che non ci vi siano anche delle connivenze con parti e strutture del territorio siculo e calabrese, lo va a raccontare da un'altra parte, per favore, perché ci siamo occupati anche di questo in questi anni. Dopodiché le vittime sono i siciliani e i calabresi onesti, così come sono vittime di tutto un certo atteggiamento. Si stava parlando però dello sviluppo del turismo al sud, che chi pensa che si possa fare solo con autostrade e aeroporti necessari ha preso una cantonata. Ancora, comunque, parliamo di sud, perché oggi il rapporto Union Camere e Infocamere segnala un incremento, questo è un dato positivo, di imprese soprattutto nel secondo trimestre nel sud, il 40% è al sud. Ci sono 38.000 imprese nuove, lo segnala l'Associazione delle Camere di Commercio, nei secondi 3 mesi dell'anno, di cui 14.500, quindi il 38%, residenti al sud. Il sud si sta dimostrando più dinamico del resto del paese come crescita di imprese, e il tasso di crescita complessivo infatti è dello 0,7%, soprattutto imprese del commercio più 8.900 e alloggi e ristorazione, vedi, più 6.000, e quindi anche a livello percentuale dal 2008 a oggi la quota del saldo nazionale, cioè la partecipazione del nostro sud al totale delle imprese nuove che vengono create, è passata dal 29% al 38%. Bene, benissimo. Thank you. Allora, chiudiamo con chiudiamo anche rapidamente perché sono un po' lungo oggi con i tempi, con i nostri 100 secondi Radio 24 e RDS. Ogni giorno, oggi la firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula, e sono dedicati a un tema che poi affronteremo, e mi riferisco a quanto accaduto a sorpresa tra Vivendi e Mediaset. Vivendi non vuole più comprare Mediaset Premium, fa saltare l'accordo già firmato, ne comprerà al massimo il 20% per poi scendere al 15%. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. La notizia che oggi sta scaldando i mercati e gli osservatori è la lite pesante tra Mediaset e i francesi di Vivendi. Che cosa è successo? Diciamo subito che si tratta di un tema importante perché è legato all'assetto futuro del sistema dei media e delle telecomunicazioni. La notizia è che il colosso francese Vivendi non è più interessato ad acquisire la totalità di Mediaset Premium, la Pay TV, come prevedeva un preaccordo siglato tra le due società nella scorsa primavera. Vivendi ora vuole acquisire solo il 20% del capitale di Mediaset Premium per salire poi in una seconda fase al 15% di tutta Mediaset. Da qui la lite esplosa oggi, che ci si può giurare annuncia anche code legali importanti, visto che Mediaset ha annunciato una super causa contro Vivendi che arriverà probabilmente a una richiesta danni superiore al 1,5 miliardi di euro. Vivendi sostiene che il venir meno dell'interesse per Mediaset Premium è legato ai risultati, ai conti non positivi della Pay TV. Sul fronte opposto, invece, l'accusa è che il vero obiettivo dei francesi sia quello di acquisire una posizione di rilievo nell'azionariato di Mediaset. Vedremo che cosa accadrà, ricordando però che Vivendi è anche il più importante socio di Telecom Italia con il 24,68% delle azioni e che di una fusione tra Mediaset e Telecom si è molto parlato in passato. Chissà che questo scenario non si realizzi proprio per mano francese. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora andiamo adesso sul meteo e la pubblicità e poi torniamo in diretta. Chi mi chiede provocatoriamente ci parlerà di Zuccato, presidente di Confindustria Veneto, ieri indagato dalla procura di Vicenza per il crack popolare di Vicenza. Ne abbiamo parlato ieri, si è perso il passaggio, l'abbiamo data guardi in diretta quando è uscito il flash, con anche la dichiarazione poi dello stesso Zuccato che ha detto di ritenersi completamente estraneo ai fatti, per cui le va male oggi la polemica. Meteo e pubblicità. Focus Economia. Dacci oggi i nostri stress test quotidiani, mentre il Financial Times dice attenzione, Monte dei Paschi dovrà fare un aumento di capitale da 5 miliardi, Commerzbank in Germania ha perso il 4% dopo aver dovuto peggiorare il coefficiente patrimoniale, chiamiamolo così, il CET1, continuano a farsi diverse ipotesi. Oggi raccontavamo di Atlante 2, che in realtà il fondo servirà da paracadute al Monte dei Paschi, avrà una liquidità per ora a come 3-4 miliardi e dovrà utilizzarli solo per comprare non performing loans, sofferenze bancarie. Vi parteciperà l'Associazione degli Enti Privati di Previdenza, l'ADEP, che ogni cassa dovrà votare poi la delibera, 19 in tutto. Mezzo miliardo verrà dall'ADEP e poi invece l'altra parte dei soldi arriverà dalla Cassa Depositi e Prestiti, dalla SGA e del Fondo Atlante, che metterà 1,2 miliardi di euro. Sempre venerdì, quando alle 22 arriveranno gli stessi test, il Monte dei Paschi avrà un consiglio di amministrazione straordinario, sta lavorando un piano di maxi cessione e crediti in sofferenza 10 miliardi e un aumento di capitale tra i 3 e i 4 miliardi. Lorenzo Codogno, già capo economista del Ministero del Tesoro a Roma e ora fondatore della LC Macro Advisor, oltre che visiting professor alla London School of Economics. Buonasera innanzitutto. Buonasera, buonasera a tutti. Gutgeld oggi, adesso lo ascolteremo dopo sulla parte di spending review, ma il commissario ha anche detto: spero che vi sia una soluzione di mercato per il Monte dei Paschi. Ma lei ha capito che qua continuano ad arrivare un giorno indicazioni per una soluzione di mercato e altri giorni indicazioni invece per un aumento di capitale garantito. Forse Atlante 2 è un misto di queste due cose, avendo dentro anche la cassa depositi e prestiti? Ma direi che Atlante è la precondizione perché un aumento di capitale possa essere di successo, ovvero sia se non si riduce lo stock di non performing loans di Monte Paschi, difficilmente Monte Paschi potrà essere messo sul mercato chiedendo nuovo capitale. Quindi direi la precondizione. Una volta risolto quel punto, e purtroppo i tempi sono strettissimi, si dovrà decidere se è necessario un intervento pubblico. È ovvio che se il consorzio di banche garantirà in pieno l'aumento di capitale, a quel punto non sarebbe più necessario un intervento pubblico, sarebbe la soluzione migliore per il governo e ovviamente anche per gli investitori di Monte Paschi. Se invece questo non sarà sufficiente, io penso che il rischio sia comunque elevato perché stiamo parlando di una cifra importante. E ovviamente Monte Paschi viene già da due aumenti di capitale, se non ci sarà sufficiente interesse privato è ovvio che dovrà intervenire lo Stato. Ho la preoccupazione perché risolvere soltanto il Monte Paschi potrebbe non risolvere completamente la situazione del sistema bancario italiano. Sì, che è il timore che aveva avanzato da questi microfoni l'economista Luigi Zingales, cioè dicendo attenzione che se sistemi solo un caso, poi la speculazione si sposta su altri nomi, se ho ben capito il suo ragionamento. Mentre se tu adotti un meccanismo complessivo, la plachi. Però, se ho ben capito quello che dice lei, Codogno le dice, attenzione, prima hai Atlante 2 che va a garantire acquistare le sofferenze, poi a quel punto puoi far fare l'aumento di capitale al Monte dei Paschi, perché sennò in questo momento, lo dico io in maniera un po' brutale, i soldi non te li dà nessuno. Con questa zavorra delle sofferenze bancarie sul Monte dei Paschi. Dopo il traffico però vorrei sapere se invece lei condivide l'opinione che abbiamo raccolto in questi giorni su questi stress test come inutili o dannosi, non si capisce se più inutili o più dannosi, ma sicuramente utili e proficui per chi vuole fare speculazione in borsa. Dopo il traffico. Focus Economia. Allora, dottor Codogno, mentre vedo adesso che dalla BCE, fonti di BCE dicono la metodologia usata è stata più rigorosa che negli stress test precedenti e lo scenario avverso ipotizza un grave declino economico. La critica mossa a questi stress test, che ipotizzano degli scenari così negativi che da un lato se si verificasse quello che ho visto, cioè un gravissimo crollo economico dei valori immobiliari, sia del residenziale che del commerciale, addirittura un taglio del valore nominale dei titoli di Stato, Codogno, il problema non sarebbe più la tenuta del Monte dei Paschi, sarebbe la tenuta dell'Italia e dell'Unione Europea. E quindi si dice, insomma, creano il panico, creano tensioni, aprono le praterie alla speculazione, alle vendite ribassiste per poi ricomprare, ma in realtà nulla ti dicono sulla banca in questo momento, perché anche Monte dei Paschi non è che non abbia i soldi per pagare e non abbia, diciamo, patrimonio, o no? Ma direi che questi stress test non sono né inutili né dannosi, anzi direi che danno agli investitori una certa fiducia, perché chi sorveglia le banche a livello europeo applica la stessa metodologia a tutte le banche europee, quindi dà trasparenza ai bilanci aziendali, sia pure in scenari che sono anche estremi, e questo va bene. Poi ogni investitore fa le sue valutazioni, quindi secondo me è importante che questi stress test ci siano e siano fatti in maniera rigorosa. Poi un altro discorso ovviamente è se debbano essere fatti ogni sei mesi, invece non debbano essere fatti con una scadenza più a ogni due anni, è una cosa più lunga, perché ovviamente da sei mesi non è che dovrebbero cambiare in maniera significativa le cose. Secondariamente ci si può interrogare sul fatto se è opportuno che la banca centrale e chi sorveglia le banche in Europa debbano continuamente venire fuori con richieste di capitale. Quindi questa pressione continua sulle banche e con richieste di capitale, a mio avviso, potrebbe essere riconsiderata, quantomeno va fatta una riflessione sull'opportunità, perché può creare appunto più volatilità di quanto... Ma crea l'opposto, noi abbiamo visto che Monte dei Paschi, quando fu chiesto l'aumento di capitale, bruciò tutto l'aumento di capitale con i cali di borsa, no? Cioè, allora voglio dire, bisogna anche stare attenti, perché se l'aumento la richiesta di aumento di capitale porta a un crollo del titolo azionario, per cui poi tu fai l'aumento, ma ti sei già bruciato il valore dell'aumento, Codogno, non è un po' un controsenso questo? E l'altra domanda che ho per lei, ma e chi dice che sono troppo orientati nel penalizzare le banche, il modello bancario italiano, fatto di prestiti che diventano anche sofferenze quando l'impresa poi non ce la fa più e attraversa la crisi che sta attraversando dal 2008? E più tolleranti su un modello di banca d'affari anglosassone, diciamo anche nord europea, piena di derivati, per esempio, con magari con meno sofferenze bancarie, ma molti più strumenti a rischio come i derivati. Vorrei conoscere una sua opinione anche su questo. Beh, l'effetto sul prezzo di borsa non è colpa dello stress test, è colpa del risultato dello stress test. Quindi le banche ovviamente devono attrezzarsi in modo tale da evitare risultati negativi. No, io parlavo lì dell'aumento di capitale, che per esempio l'ultimo caso la Banca Centrale Europea, cioè tu fai una dichiarazione in cui dici dovrai vendere questo, intanto il titolo crolla, per cui ti rischi di bruciarti tutto il valore dell'aumento di capitale. Sì, in questo senso sono d'accordo, ovvero sia non ritengo sia opportuno che in maniera così unilaterale e arbitraria la Banca Centrale intervenga pubblicamente, perché questo può generare effettivamente volatilità. Lo deve fare con una certa regolarità, senza, con delle cadenzature, con delle scadenze regolari, in modo tale da non generare queste tensioni sul mercato. Detto questo, è chiaro che gli stress test sono migliorabili. È stato contestato da varie parti il fatto che le piccole e medie imprese abbiano un assorbimento di capitale eccessivo, e ovviamente le banche italiane sono esposte particolarmente a queste piccole e medie imprese. Questa è una valutazione che va fatta sui tavoli tecnici, e ovviamente l'Italia dovrà portare avanti le sue istanze. Questo fa parte delle miglioramenti tecnici che spero verranno in un prossimo futuro. L'ultima cosa, come ho visto che lei ha fatto parte, anche era capo economista del Ministero del Tesoro e poi lavora a Londra, insomma, secondo lei quando noi pesiamo poco o otteniamo poco a livello di tavoli tecnici, in questo io sono d'accordo con lei, inutile che poi l'ABI si svegli più tardi, cioè, il problema qual è? È che pesiamo poco politicamente o che diciamo le nostre banche si sono fatte sentire poco? Sarebbe un discorso molto complesso, penso che l'Italia non stia facendo un cattivo lavoro, è ovvio che va fatto sia a livello tecnico questa pressione, sia a livello politico. E teniamo conto che comunque l'Europa è una complessa struttura dove si intrecciano interessi e pressioni di tipo diverso, e non sempre il risultato può essere pienamente favorevole all'Italia. Quindi secondo me va considerato nel suo complesso. Ha detto questo, che se ci sono istanze tecniche specifiche che possono essere fatte valere a livello europeo sui tavoli tecnici, questo deve essere assolutamente fatto. Allora grazie anche per la chiarezza che le proprie a Lorenzo Codogno, appunto già capo economista del Ministero del Tesoro e adesso oltre che visiting professor London School of Economics anche fondatore dell'LC Macro Advisor. Mi scusi l'ignoranza, ma l'LC Macro Advisor farà consulenza macroeconomica? È facile, diciamo, ho sbagliato. Sì, fa consulenza macroeconomica, sì. Perfetto. Grazie ancora, dottor Codogno. Allora, il resto della borsa, al di là di Mediaset, di cui poi parleremo, meno 6,90%, Si connota per un titolo particolarmente positivo, da lì voglio partire, CNH Industrial, Case New Holland, più 7,70, poi Popolare Milano più 3,50, Saipem più 3,20, Banco Popolare più 2,50, Recordati più 2, Buzzi Unice più 1,70, Exor più 1,30%. Il fronte opposto invece vede oltre Mediaset, Luxottica meno 4, Mediobanca meno 2,30 come Unicredit, Azimut meno 1,60, Monte dei Paschi meno 1,20, Ferragamo meno 1,1 come Telecom Italia. Guido Maurino, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Case New Holland. Per quello che riguarda Case New Holland, il titolo ha guadagnato bene, più 7,74% dopo che sono stati diffusi i conti del secondo trimestre. La società ha registrato un utile di 129 milioni di euro, in crescita di 7 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ma soprattutto gli investitori hanno apprezzato la conferma delle stime per fine anno, quindi per l'intero 2016, perché CNH è attiva in un settore come quello agricolo che ha qualche segno di rallentamento e di difficoltà, e il fatto che invece riesca a confermare i suoi obiettivi per fine anno è stato visto positivamente, anche perché altre società del settore che si occupano di veicoli industriali eccetera negli Stati Uniti stanno faticando in questa fase e hanno dato invece dei conti piuttosto deludenti. Grazie, l'indice, finché chiedete l'indice va bene, e quando mostrate il medio che non va bene. Invariata Milano, Parigi più 0,1, Francoforte più 0,50, Londra più 0,21, il Dow Jones sta recuperando meno 0,25%, ne parliamo dopo il GR24 349 238 6666 per sms, whatsapp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Focus Economia. E 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, concludiamo la parte di borsa, eccezione fatta per Mediaset, di cui parleremo subito dopo con Guido Maurino. Da questo punto di vista, al di là di Case New Holland e Pop Milano, c'è anche Luxottica oggi che perde però meno 4%. Sì, Luxottica ieri a borsa chiusa ha diffuso i suoi conti relativi al primo semestre. Si tratta di conti in cui sostanzialmente la società ha confermato un utile di 500 milioni di euro in linea con quello che aveva fatto lo scorso anno, ma ha anche messo in guardia rispetto alle prospettive della società per le condizioni di mercato difficili. Proprio questa prospettiva, questa difficoltà che potrebbe incontrare nella seconda parte dell'anno ha suggerito prudenza agli investitori che oggi hanno penalizzato il titolo. Dobbiamo poi anche considerare che ieri in una giornata comunque poco mossa per Piazza Affari era stato fra i migliori Luxottica, che aveva guadagnato circa il 2%, quindi in qualche modo anche alcune prese di beneficio erano all'ordine del giorno, ecco. Vedo un'agenzia appena battuta in cui, secondo indiscrezioni, il Monte dei Paschi avrebbe inviato in queste ore il piano alla Banca Centrale Europea e passerebbe per un aumento di capitale da 5 miliardi e un taglio delle sofferenze nette per 10 miliardi attraverso una maxi cartolarizzazione col sostegno di Atlante. Quindi, da quello che capisco, prima andranno cartolarizzate le sofferenze, ossia impacchettate sul mercato attraverso la garanzia del fondo Atlante 2, se ho ben capito il meccanismo, e poi a quel punto si procederà a un aumento di capitale da 5 miliardi. Per me capire come era sottoscritto, ma adesso non siamo in grado. Vedo che nel frattempo Mondadori ha venduto Marsiglio per quasi 9 milioni di euro alla GEM, la cessione a GEM della partecipazione del Comune di Marsiglio di Tori pari al 94,7% del capitale. E questa è una notizia che voi state come Radio Core sulle 24 ore buttando fuori in questo istante. Guido, ancora sui titoli, quindi le agenzie le stiamo leggendo perché stanno arrivando una dopo l'altra anche sul Monte dei Paschi. Sui titoli e al di là della vicenda Monte dei Paschi in senso stretto, Unicredit oggi ha annunciato praticamente che il nuovo riassetto prevede che a Gianni Franco Papa, attuale vice direttore generale del gruppo, verranno date tutte le attività di business, quindi il nuovo direttore generale, e poi lasciano il gruppo invece il vice direttore generale Paolo Fiorentino, così come l'attuale direttore finanziario Bernardo Mingrone. Non mi sembra che il titolo abbia reagito in maniera particolarmente così entusiasmante, no? Sì, oggi il titolo ha ceduto il 2,27%, in parte questo giro di poltrone era stato anticipato un po' nei giorni scorsi da varie indiscrezioni. La cosa più significativa è proprio la nomina del nuovo direttore generale Gianni Papa, che era già vice direttore generale e si occupava della parte dell'investment banking della banca, e che viene quindi promosso. Lasciano d'altra parte il gruppo il direttore finanziario Mingrone e uno dei vice direttori generali Paolo Fiorentino. Sono un po' le prime mosse di Mustier, che ha salutato questa riorganizzazione anche nell'ottica della semplificazione, e forse qualcosa di più capiremo anche fra l'autunno e la fine dell'anno, quando dovrebbe fare effettivamente una revisione del piano strategico della banca, e quindi si capirà un po' meglio che strategia vorrà imporre per Unicredit. Devo dire a chi mi chiede le reazioni su Monte dei Paschi, beh, la notizia è arrivata al mercato già bello che chiuso, il titolo ha perso l'1,20%, bene invece anche oggi Saipem più 3,20%, il Banco Popolare più 2,50%, Recordati più 2%, Buzzi Unicem più 1,70%, Comexor più 1,30%, che si avvantaggia del fatto che la famiglia Agnelli pagherà le tasse in Olanda, adesso la dico male, ma insomma questo è Exor, ha annunciato infatti di aver trasferito la sede in Olanda, e quindi anche, come già il gruppo Fiat, il pagamento delle tasse lì. Andiamo sui migliori e peggiori in assoluto per quello che riguarda oggi il listino. Poligrafici Printing più 13, Enav più 10%. Enav bene in questi giorni, Guido. Oggi era il debutto di Enav a Piazza Affari, è stato un debutto sicuramente positivo. Il titolo partiva da 3,3 euro che era il prezzo di collocamento è arrivato a 3,65. In fondo c'era già stato proprio in questi giorni una forte attenzione sul titolo, come dimostra il fatto che la domanda di azioni fosse di 8 volte quello che era offerto, per cui insomma molti si sono posizionati sul titolo oggi. Bene, comunque un debutto più che favorevole, più che positivo, a 3,65 euro l'ultimo prezzo. Stefanel più 10,30%, Basic Net più 8%, fronte opposto Mediaset, dicevamo il peggior titolo in assoluto oggi. E poi Commerzbank, che ha dovuto rettificare tutto il patrimonio, meno 6,40%, il CET1, TAS meno 6,20%, Neurosoft meno 5,50%. Allora parliamo ancora di borsa, per la vicenda a sorpresa che ha visto Vivendi di fatto sfilarsi dall'operazione di acquisto di Mediaset Premium, già firmata lo scorso 8 aprile. Eh sì, era dello scorso 8 aprile l'accordo che prevedeva uno scambio azionario tra Mediaset e Vivendi, il colosso multimediale francese che fa capo a Vincent Bolloré. Praticamente ognuno dei due dava il 3,5% del rispettivo capitale. Mediaset, per pagare, per pareggiare questo, cedeva il pacchetto di Vivendi, valeva 900 milioni, ha messo sul tavolo la sua quota più premium, e a quel punto tutto quanto era abbastanza chiaro. Vivendi comprava Premium, Mediaset Premium, e c'era chi ipotizzava che questa fosse la prima mossa per aumentare la sua partecipazione, se non addirittura il controllo, secondo alcune speculazioni, dentro Mediaset. Oggi Vivendi, o meglio Mediaset, ha comunicato che in maniera, Fininvest l'ha definita un'assoluta scorrettezza di Vivendi, e ha definito il comportamento di Vivendi di eccezionale gravità e di assoluta scorrettezza. Però è stata Mediaset a comunicare che, attenzione, la volontà del gruppo francese di acquistare solo il 20% di Mediaset Premium e di scendere in 3 anni al 15% attraverso un prestito obbligazionario convertibile. E lo stesso numero uno di Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, ha detto che la società non intende onorare il contratto. Insomma, molto a sorpresa. Andrea Biondi del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Andrea, che è successo? Perché insomma, era un'operazione data non per acquisita, ma straacquisita. In effetti quello di stamattina è un po' un fulmine a ciel sereno. Intendiamoci che Vivendi volesse pagare meno la quota di Premium era una voce che circolava, forse anche una speculazione legata ai conti di Premium che sia nel 2015 sia nel primo trimestre del 2016 hanno appesantito il rosso di Mediaset nel primo trimestre del 2016 e comunque non erano buoni. Che però si arrivasse a questo, onestamente, è una vicenda che era difficilmente prospettabile a priori. Come dicevi tu, stamattina è iniziato con un comunicato di Mediaset che si è detto che dal gruppo di Cologna hanno detto essere necessario appunto per le nuove normative, insomma, sulle comunicazioni, ma al di là di tutto era una comunicazione necessaria, e da allora è stato un botta e risposta di vari comunicati. Che cosa sia successo? Questo è onestamente da capire, da scandagliare nelle prossime ore soprattutto. Certo è che Arnaud de Puyfontaine era presente a Milano, ha detto che comunque intendeva valutare diversamente, quindi una nuova proposta. Quindi per Vivendi è come se fosse l'inizio di una nuova trattativa. Dalle comunicazioni che sono state mandate invece da parte di Mediaset c'è una chiusura netta rispetto a questa nuova prospettiva, che è appunto non più il 100% di Premium ma il 20%, per arrivare a detenere poi Vivendi il 15% di Mediaset attraverso un prestito obbligazionario. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire in qualche modo emettere un prestito obbligazionario per far sì che la quota di Fininvest, che è al 34,7% di Mediaset, in qualche modo vada a diluirsi. Sarebbe come a mettere in discussione il controllo della Fininvest su Mediaset. Questo è un po' quello che è quello che possiamo vedere a valle della proposta. O quello che sicuramente. Allora, un malizioso potrebbe dire che invece che andare avanti con la politica dei piccoli passi, cioè prima compro Mediaset Premium, è uno scambio azionario del 3,5% su Mediaset, Vivendi ha rotto il contratto perché vuole puntare direttamente più in alto. Ripeto, è un ragionamento malizioso di ok, non mi interessa più tenermi Premium, vado direttamente attraverso un'operazione di obbligazioni, di emissioni obbligazionarie, vado a comprarmi il 15% di Mediaset direttamente, cioè dal capogruppo. Esattamente il ragionamento che si sta facendo in queste ore, anche vedendo quello che poi Vivendi ha fatto in Telecom, dove in effetti ha questa quota di controllo con il 24% rotti. Dall'altra parte però da Cologno hanno fatto sapere che c'è un contratto vincolante che è stato firmato l'8 aprile e che quel contratto in qualche modo può essere oggetto di azioni legali che possono arrivare a una quantificazione di una richiesta fra il miliardo e il miliardo e mezzo, se consideriamo il valore dell'operazione e tutti i danni ricevuti, insomma, da questa melina, insomma. Ora occorrerà vedere, ripeto, perché dalle dichiarazioni di stamattina si è visto come se Vivendi volesse aprire a una trattativa, ma Mediaset dall'altra parte, che avrà il consiglio d'amministrazione proprio giovedì e che quindi dovrà esprimersi sul tema, sembra abbastanza tranchant nel voler richiedere ai francesi di ottemperare ai loro impegni, agli obblighi che si sono assunti con quel contratto dell'8 aprile 2016. Sì, però adesso non sfugge a nessuno, adesso non possiamo fare troppe supposizioni, però non sfugge a nessuno che delle due l'una: o non sono più interessati alla parte premium e vanno a pagare una penale altissima e si apre una battaglia legale. Però è un po' strano che un colosso come Vivendi, lo dico, questa è la mia opinione personale, non abbia fatto una due diligence, cioè non abbia valutato correttamente quello che c'era dentro Mediaset Premium e lo scopra a luglio dopo che hai firmato all'8 d'aprile. Mi sembrerebbe molto strano, cioè dovrebbero saltare delle teste. Altra cosa è dire che è cambiata la strategia di Vivendi, che ha già, come tu ricordavi, controllo relativo, la maggioranza relativa in Telecom Italia, e che secondo alcuni punterebbe ad arrivare anche a un controllo, o comunque essere un socio importante, pesantissimo, dentro Mediaset. Tu giustamente ricordavi che la Fininvest ha il 33,4% di Mediaset, e poi ci sono McKinsey Financial Corporation che ha il 5%, Treasury Share che ha il 3,80%, e poi vabbè, ci sono altri azionisti con meno del 2% che hanno il complessivamente 54,2% del totale, mentre Vivendi è controllata da Vincent Bolloré che ha il 14,30%, poi BlackRock e poi titoli minori. Prego. Sposo completamente la tua tesi. Io non riesco a pensare che un colosso come Vivendi in qualche modo non abbia avuto contezza effettivamente di quelli che erano i conti. Dopodiché, per carità, il rosso di Premium è sotto gli occhi di tutti. Addirittura nella prima trimestrale dell'anno Mediaset stessa ha fatto presente che senza Premium sarebbe stata inutile di 38 milioni, mentre invece ha dovuto chiudere in passivo di 18 milioni. Detto ciò, credo che effettivamente sia cambiata la strategia, però c'è una domanda alla quale non so dare neanche io una risposta, cioè come credo che in qualche modo Vivendi dovesse attendersi una risposta così forte da parte di Mediaset, che concluso il suo accordo, un accordo strategico, e allo stesso tempo in qualche modo si liberava di quella che loro stessi nel primo trimestre dell'anno hanno fatto intendere essere alla fine una zavorra per i conti. Sì, cioè che anche loro dovessero mettere in conto l'ipotesi di pagare una penale salatissima, questa è l'altra cosa abbastanza... Io ripeto, credo che sia alla fine per De Puy Fontaine e per Vivendi sia inteso questo momento come l'inizio di una trattativa diversa, le posizioni in campo però sono abbastanza rigide e quindi bisognerà capire come evolverà la situazione. Grazie intanto al collega del Sole 24 Ore Andrea Biondi. Andiamo sul traffico e poi il via libera agli acquisti centralizzati da pubblica amministrazione. Chiudiamo una volta tanto con una buona notizia sulla pubblica amministrazione. Focus Economia. Dicevo, una buona notizia che non riguarda, non è tanto l'inizio del confronto tra governo e sindacati, quindi col ministro della funzione pubblica Marina Madia, per il rinnovo del contratto del pubblico impiego da 7 anni bloccato, riguarda 3.200.000 lavoratori, si tratta di aggiornare i livelli salariali e le priorità secondo quanto chiarito dal governo spetteranno a chi guadagna meno. Ad oggi però le risorse sono limitate a 300 milioni di euro. E poi premiare chi merita. Il ministro Madia ha detto stop agli incentivi a pioggia, speriamo che sia la volta buona. Se vi sarà una crescita, vi saranno più risorse per il contratto. Il testo unico di pubblico impiego potrebbe arrivare a gennaio. Il turnover deve essere selettivo, non più indistinto, cioè il blocco del turnover nella pubblica amministrazione. Detto questo, Barbagallo della UIL, il segretario della UIL, dice: attenzione, siamo 2,5 miliardi, non 300 milioni. La buona notizia riguarda che è partita con la pubblicazione oggi del decreto del Ministero dell'Economia e Finanze in Gazzetta Ufficiale i cosiddetti prezzi standard per 34 convenzioni Consip, a cui la pubblica amministrazione dovrà attenersi per acquistare autovetture di pubblica sicurezza, energia elettrica, fotocopiatrici, i PC portatili, i tablet, gli aghi, le siringhe. Il risparmio è di 200 milioni iniziali e poi a regime inoltre 1 miliardo. Come ha chiarito al microfono la nostra Chiara Piselli il commissario alla Spending Review Yoram Gutgeld. Noi siamo partiti, diciamo, in modo operativo 6 mesi fa con la categoria della sanità, su cui ci sono già risultati molto importanti. potenziale di risparmio importante che è stato individuato, adesso i soggetti aggregatori, quindi gli organi preposti a fare gli acquisti porteranno a casa, e adesso lo estendiamo anche agli enti locali, quindi ai comuni e altri enti locali per quanto riguarda spesa comuni, quindi pulizia, facility management, manutenzione, tutto quello che riguarda gli immobili pubblici. Queste sono queste categorie, poi aggiungeremo altro nel tempo, ovviamente estendiamo e allarghiamo questo meccanismi, consentono di risparmiare, di comprare in modo più qualificato, di migliorare la qualità con quello che si compra e di farlo in modo più efficiente. Questo è un nuovo modo di organizzare la pubblica amministrazione, lavoriamo in collaborazione tra regioni, comuni, città metropolitano e governo. Dal 9 di agosto scatta l'obbligo da parte dei comuni per queste 5 categorie di far ricorso ai soggetti aggregatori, quindi non possono più comprare in modo autonomo ma devono comprarlo attraverso questo meccanismo per queste 5 categorie. Allora, professor Piga, io la riavrò ospite, scusatemi. Professor Carlo Della Ringa, economista, a volte già ospite, anche perché ha lavorato molto dentro l'ISFOL. Buonasera, dicevo la riavrò ospite perché il tempo è limitato, ma è una buona notizia questa, finalmente riusciamo ad avere, Guttke ha chiarito una spending, o meglio dei prezzi standard, tra l'altro anche per le amministrazioni per le quali non vige l'obbligo di utilizzare le convenzioni Consip, devono comunque rispettare il benchmark stabilito. Professore. Beh, alla fine ci è voluto tantissimo tempo, ma alla fine siamo arrivati, quindi quella che era una intuizione iniziale trova finalmente pratica. Non c'è dubbio che avere tanti punti di acquisto sparpagliati sul territorio dà una capacità di risparmio molto limitata. Invece adesso c'è anche una forza contrattuale, perché quando fai economia di scala dal punto di vista dell'acquirente, è chiaro che l'acquirente si mette in una posizione di vantaggio nei confronti del venditore. E quindi questa va sfruttata naturalmente per i cittadini, per il bilancio pubblico. Si incomincia adesso e vede che già con questo inizio si possono risparmiare alcune centinaia di milioni. Se si proseguirà sulla stessa strada si potrà risparmiare parecchio, perché noi pensiamo che la percentuale di spesa per beni intermedi nella pubblica amministrazione è una cifra molto molto elevata. Sono 130 miliardi l'anno la parte di beni intermedi. Senta, professor Della Ringa, in realtà oggi, come raccontavamo, c'è sì la buona notizia della Gazzetta Ufficiale, c'è anche l'avvio dell'incontro sul pubblico impiego. Ora, stando alle richieste che arrivano dai sindacati, 2 miliardi e mezzo, la disponibilità del governo 300 milioni, non ci siamo. Qual è, no, da quello che lei ha capito, diciamo, l'intenzione del governo di legare i rinnovi a che cosa? Beh, naturalmente di fare una politica in questo periodo, siamo molto attenti alle questioni sociali, come si dice, no? Quelli che sono rimasti indietro, quelli che non ce la fanno. Ormai dopo 7 anni di blocco degli stipendi, ci sono alcuni stipendi che sono veramente, erano bassi prima e sono ancora più bassi adesso. E quindi qualche tentativo di aumentare quelli, soprattutto alcune voci della busta paga che si prestano per aumenti di carattere differenziato, che non sono le paghe basi, quelle sono parametrate fra di loro, quindi non si possono toccare, ma ci sono indennità varie e su quelle si può far leva per cercare di aumentare dal basso quelli che sono in maggiore difficoltà. Io penso che con l'attuale disponibilità non ci sia possibilità di fare più di questo, a meno che non si aprano spiragli per finalmente cercare di vedere se è possibile di legare salari, diciamo così, delle singole amministrazioni ai risparmi che queste amministrazioni, ecco, possono fare. Lì volevo arrivare, perché ci sarà un modo per introdurre anche, certo, il tema della produttività, certo, nel pubblico impiego, come si sta cercando di fare anche nel privato. Ora mi rendo conto che valutare la produttività di una struttura sanitaria, di un tribunale, di un ufficio, diciamo, di amministrazione, non sia tanto facile quanto valutarla su un soggetto privato che vende, ha un fatturato, ha un margine operativo e quant'altro, però... No, voglio dire, si può applicare tecniche, è chiaro che è difficile calcolare la produttività perché molto spesso non sono quantificabili i servizi che vengono prodotti, però anche lì è chiaro che non c'è il profitto, il ricavo come nel privato, ma ci sono i budget, si possono mettere dei budget. Per esempio, rispetto al momento che si standardizza tutto, si può capire che per la produzione di certi servizi una unità organizzativa ti può bastare, che ne so, 3 milioni. e nell'ambito dei 3 milioni ci sarà una quota per il personale. A quel punto, se riesce a risparmiare sul personale perché fa lavorare di più la gente, può usare quei risparmi per aumentare le retribuzioni. Ecco, indirettamente si può stabilire una relazione virtuosa fra produttività, cioè risparmio sul personale per pagare di più quelli che lavorano di più e lavorano con maggiore efficienza. Questo è un metodo, non è mai stato esplorato nel nostro paese, ma in molti paesi si fa così. Infatti, si va per budget che vengono stabiliti all'inizio e poi una certa autonomia delle singole unità su come utilizzare quel budget. Questo budget, certo. Allora, per quello che riguarda invece, vedo molti messaggi di piccoli imprenditori, ma gli acquisti centralizzati da Consip potremo monitorarli in rete? Sì, il portale si chiama acquistinretepa.it, acquistinretepa.it. Domani torneremo a parlarne comunque, perché affronteremo da un altro aspetto questo, il tema fondamentale dei costi standard. Intanto grazie a Carlo Della Ringa, da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.